Adeklame gelina tembe mbewa mai tebuo. Adeklame gelina tembe mbewa mai tebuo. Paradia kade te santo valo rampewa mo. Paradia kade te santo valo rampewa mo. Sarà, sarà, sarà.